Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui. E allora, sei mancato una settimana di Donnarumma. La settimana decisiva. Sì, per Donnarumma. Per Donnarumma. Vorrei dire, ma però per la tribù alla quale appartieni, una delle più alte e nobili del tifo del calcio italiano, è una settimana di quelle. Insomma. Decisiva. Hanno fatto la legge elettorale nel frattempo. Beh, insomma, no, no. Però insomma, non niente di decisivo. In Francia sì, ma i francesi sono un'altra pasta. Ma da noi la vera cosa è stato il caso Donnarumma. E in tua assenza Meazza era lì che diceva le cose la mattina, che vuoi fare? Non avevamo il contrattato. Lasciamoli divertire, lasciamoli godere di questo momento così. E che vuoi fare? Via, via Donnarumma, se non vuole via, via, via, che problema c'è? Anche io sono d'accordo, mi sembra una buona linea. Vuole andare a giocare in una squadra, va bene. Buon per lui, esatto. Guadagnerà molto di più. Tutti felici, senza fare drammi, senza neanche fare troppe ironie, sono cose che capitano, mi sembra. È il mercato. E il mercato, beh, certo, poi diciamo quando ci sono protagonisti come Raiola è un mercato di quelli, per così dire, un po' ecco, con qualche iniezioncina di ormoni dentro, però vabbè, insomma, ma è giusto così. Allora, vabbè, insomma, mi sono perso grandi cose. Guarda, l'Italia è a tempi così vischiosamente impantanati che è difficile che proprio no, ci sia una settimana dalla quale cambia tutto, lo sai com'è, dopo anni che fin cui fai l'osservatore non è che... Allora, oggi San Romualdo a me piace perché è il santo fondatore dei camaldolesi, mi piace anche perché famiglia nobile, stiamo parlando di un'Italia a cavallo tra la fine del pre-anno 1000 e i primi decenni dell'anno 1000, quindi un'Italia complicata, e in quell'anno lì di famiglia nobile, mai invischiata in delitti e vendette di sangue, decide di cambiare vita, quindi diventa un eremita e pensa che addirittura convince un doge che ha molto probabilmente a Venezia le mani sporche di sangue del predecessore e lo convince a mollare tutto e a ritirarsi in un convento sui Pirenei, e con grande scandalo dei veneziani che non capiscono come un doge possa fare cose simili. Dopodiché girerà per tutti i conventi d'Italia da Monte Cassino in poi fondando Eremi, e il fondatore dei Camaldoli e dei Camaldolesi. San Romualdo mi è sempre piaciuto. Cosa succede oggi nella storia che valga la pena dal mio punto di vista di ricordare? Beh, innanzitutto in questo giorno in cui Macron stravince anche alle legislative, è lo stesso giorno in cui la Statua della Libertà arrivava al posto di New York, al porto di New York, la Statua della Libertà forgiata e fatta in Francia, e quindi insomma c'è un che in questo avvenimento storico che ricorre. Per noi gattofili è un giorno molto importante perché oggi esordiva su 41 testate giornalistiche americane il gatto Garfield, che è l'emblema del politicamente scorretto insieme a Fritz il gatto, nel 1978. Io sono un lettore accanito delle strisce del gatto Garfield di Jim Davis. Facciamo gli auguri oggi tra gli altri a Gilberto Benetton, Francesco Mosè e al mio amico Mario Giordano, giornalista, intemerato scrittore di un libro l'anno contro la casta, granata torinese. Ogni tanto mi perdo l'elenco dei giornali da cui facciamo, perché libro, giornale, libro, è stato direttore di quasi tutte tranne TG5 testate le informazioni, sì, no. Messa la TG4, a molti sta un po' sul gozzo, ma in realtà è una persona simpaticissima. Ma no, un grande Mario Giordano, un grosso abbraccio ovviamente. Tra l'altro, Oscar, qui dobbiamo fare un annuncio. Un annuncio? Non è su Donnarumma adesso? No, però dobbiamo dire che fino a luglio andremo in onda fino alle 9:30. Ci allungheremo un pochettino. Ci allungheremo. Ti vedevo già sbuffare. No. Ci allungheremo. Lo hanno comunicato quasi sabato. Ma vabbè. Va bene, comunque ci allunghiamo. Ci allunghiamo fino alle 9:30. Quindi a partire da oggi siamo in onda fino alle 9:30. Cari Topolini. Poi, non mi hai detto Lulu, Lola, il Ragu Artù, cosa hanno partorito, insomma, sul tema... legge elettorale o anche ius soli, sì, se sono favorevoli o no. Sono i cinque gatti di Oscar, questo per chi sono, non l'avesse ancora capito. Sono riuniti, però sono un po' contrariati dalla vicenda Consip, questo non c'è dubbio. Sì, sono contrariati dalla vicenda Consip, che adesso ci spiegherai. Prima di entrare sulle cose italiane, dobbiamo raccontare che purtroppo questa notte è stata ancora una giornata, una nottata complicata per Londra, perché sì, c'è stata una persona che con un mezzo ha travolto alcune persone davanti, alcuni fedeli musulmani davanti alla moschea di Finsbury Park. Che è morto, una, insomma, di quelle sì, tradizionalmente da sempre accostate all'estremismo. Ecco, sì, un morto e 8 feriti. Io non vorrei davvero, ovviamente si indaga per attacco terroristico, non vorrei davvero che adesso si entrasse in questa follia. Da ritorsioni, insomma, da ritorsioni, il termine. Uno che con un furgone travolge i fedeli musulmani davanti alla moschea sa tanto al momento, per quello che se ne sa, di ritorsione, di vendetta, di vendetta poi nei confronti, perché e quindi bisognerà vedere. Bisognerà certo vedere. L'apparenza è questo. Infatti il sindaco di Londra ha parlato di un terribile attacco terroristico, e questo però, se ci fossero degli aggiornamenti, vediamo durante la messa in onda. Perché la questione della Consip? Ma perché vedi, la questione della Consip è una questione singolare del doppio criterio che si segue nella politica italiana. In sintesi, per chi non se la ricordasse, l'amministratore delegato della Consip, cioè la grande società pubblica che fa le gare accentrate per diminuire il costo di gare sparpagliate per l'acquisizione di ciò che serve alla pubblica amministrazione, Marroni non è indagato. Stiamo parlando della vicenda di gare pilotate, pressioni politiche a favore dell'imprenditore napoletano Romeo, e poi con un contorno di reati, perché oltre alle pressioni c'era anche, a un certo punto è indagato il comandante generale della Marina Carabinieri per aver detto in giro guardate che vi stanno intercettando, e averlo rivelato anche alla politica, ed è indagata per la stessa ragione anche il ministro Lotti. Ecco, questo è lo sfondo. C'è poi anche il filone del capitano del NOE, indagato lui. Pure lui, bella storia, perché quello ha detto alla trascrizione delle intercettazioni. Avrebbe tirato in ballo il papà di Renzi, esatto, in maniera impropria. Ecco. Classico centrale. Ma l'amministratore delegato del Consip non è indagato. Ecco, il problema è che l'amministratore delegato Marrone ha confermato ai PM la sua versione sulle pressioni ricevute sulla violazione del segreto. Questo al PD non piace, perché come è evidente è un accusatore di Lotti, capisci? Non piace. Allora, che non piaccia, io lo capisco, però non è indagato. In tutto questo il governo, poiché martedì, cioè domani, era previsto un dibattito parlamentare su alcune mozioni, anche del PD, in cui praticamente si chiedeva di mandare a casa l'intero vertice della società, e sono mozioni su cui in Senato forse non c'è la maggioranza, che fa il governo venerdì? Fa dimettere due componenti del Tesoro. E Padoan dice che lo fanno per difendere l'azienda. Nel frattempo uno dei due è indagato lui, il presidente, che si è dimesso. Allora, a me sembra una cosa di una gravità, da quello che sappiamo, molto rilevante. Perché capite che tentare di far cadere un amministratore delegato che non è indagato, ma è un accusatore, insomma, non ci vogliono molte parole, dicendo, per capire che cosa vuol dire. Dicendo, no? Che a questo punto il CDA è decaduto, quindi anche lui. Però anche è una, lui... Ma ripeto, se Berlusconi avesse fatto un decimo, ma figuratevi, volavano i bombardieri, ma io sarei stato con i bombardieri, però. Come adesso dico che è una vicenda che proprio veramente. Io sono stupito di Padoan. Padoan che aveva difeso Marroni più volte in Parlamento, infatti, e adesso però se l'è rimangiato. Però, tra l'altro, la vicenda magari può apparire complicata. Poi si dimetterà l'amministratore delegato Marroni. Pare che non voglia farlo. Pare, secondo il Fatto Quotidiano, che voglia incontrare Cantone, il capo dell'anticorruzione, e dire. No, voglio spiegare, voglio togliermi anche qualche sassolino dalla scarpa. Questa è una frase, come dire, intercettata non nel senso telefonico, ma sentita dal messaggero e riportata dal messaggero. Questa è una vicenda, insomma, che riguarda proprio la politica, una società importante. Direi in Italia, molto importante. Il governo, perché poi finché il PD, giustamente può dire fare quello che vuole, però il governo è un'altra cosa. Mentre in settimana ho capito bene che si è litigato molto sullo ius. Sullo ius soli. Sì, sullo ius soli. Vedo che il tono di Oscar si è abbassato, no, perché di colpo. Molte volte ho capito che chi rilascia dichiarazioni spera, confida, ed è ragionevolmente certo, che poi gli italiani non sappiano neanche il positivo della legge di cui si parla, no? Quindi, però detto tutto questo, la classica polemica all'italiana, perché siccome nel primo turno, ricordiamolo, i sindaci che si battevano per l'integrazione sono andati peggio di quelli che invece andavano contro, ecco che in vista del ballottaggio, eccetera, sì, eccetera. Tra l'altro, legge che si farà non si capisce bene, visto che la legislatura è in scadenza tra qualche mese, ecco, prima si pensava tra qualche due mesi, settimana, adesso, quasi adesso un po' di qualche mese. Mese. Comunque, noi per fare il punto della situazione, come ogni lunedì, abbiamo Elisa Calessi di Libero e che salutiamo. Buongiorno Elisa. Buongiorno, buongiorno a tutti. E con noi anche Annalisa Cuzzocrea di Repubblica. Buongiorno Annalisa, eccoci qui. Buongiorno. Allora, capire che succede e che, insomma, domani è una giornata importante su questa cosa della Consip, eh? Domani è una giornata di battaglia al Senato, dalla battaglia di giovedì scorso sullo Ius Soli, con anche feriti, interventi tutte dell'infermeria. Tutte battaglie, sempre battaglie. Sì, esatto, tutte battaglie per poi... ecco, va bene, va bene. Ecco. Noi siamo i soliti disfattisti. No, siamo un po' freddi, distaccati, un po' cinici su nello, perché po' cinici, cioè, sì. Tentiamo sempre di abbassare il rilievo di queste battaglie epocali della politica italiana. No, però vogliamo capire, non so, Annalisa Cuzzocrea, questo aspetto per esempio della Consip, che cosa ci si gioca dal punto di vista della partita politica? Aiuto. No, ci si gioca moltissimo, nel senso che da questa storia dipende un po' la credibilità di tutto quello che è stato il governo Renzi e che è ancora la dirigenza del PD. Quindi io capisco Oscar quando dice che è sicuramente una cosa grave che il governo intervenga in questo modo, facendo in modo che cada il consiglio di amministrazione. A me ha fatto riflettere un po' la frase di Padoan, che a Repubblica delle Idee ha un po' difeso questa scelta, dicendo i vertici Consip si sono dimessi per difendere il loro lavoro e la società, e poi ha detto l'accelerazione è dovuta al fatto che ci sono delle mozioni in Parlamento da rispettare. E io ho pensato che la prima volta che una mozione ha un effetto, perché grande. No, si dice sempre in Parlamento che una mozione non si nega a nessuno. Penso che le mozioni si fanno un po' per alleggerirsi la coscienza su determinate cose, però caso, alla invece, fine non sono esecutive. Ma c'è la sono state efficaci. La famosa canzone di Mogol Battisti non era mai stata capita. Tu chiamale se vuoi le mozioni, non le apostrofo emozioni. Questa è. Vabbè, Oscar. Però è anche vero che ci dovrebbe essere la serenità in Italia per far andare avanti un'indagine, per farla arrivare sono a d'accordo. Dei risultati esatto. credibili e poi trarne le conseguenze. Dopo, in questa giusto. Storia. È tutto un filtrare di intercettazioni manovrate, cioè c'è davvero non so come dirvi, ma davvero è tanta oscurità dentro. Ah no, ma come no? Per cui c'è un'indagine, è un appalto da 2 miliardi e 700 milioni, c'è un capitano del NOE accusato di avere falsificato delle o malinterpretato le intercettazioni che riguardano il papà del segretario del PD. Ci sono procure di Napoli e di Roma, che lì Ci sono anche storie nelle storie, perché per esempio avevo letto che questo appalto riguarda la pulizia degli uffici di tutta l'amministrazione, cioè della politica praticamente, sì. a Roma. Quindi avete idea di che cosa vuol dire poter entrare, avere le chiavi degli uffici, dei ministeri, di Palazzo Chigi? Quindi è un appalto. Annalisa, sei fantastica, l'hai detto come dice, se voi capite che si tratta delle stalle di Augia, cioè la grande impresa di Ercole. No, per me voleva dire, capite cosa vuol dire entrare con una microspia e piazzare esatto. come no, nei film? No, io non dico niente. No, davvero, tu non dici niente, storia, per io non ho detto microspia, non l'ho detto, però è davvero una storia che ha dentro molta oscurità, quindi io vorrei davvero che ci fosse la serenità in questo paese di far andare avanti un'indagine e di vedere dove porta. Invece, invece no. È una guerra anche parlamentare, e questo è una guerra anche questa. Elisa Calessi, è una guerra che può far male al Partito Democratico, per come, che può come dire, avere una ripercussione. Oggi sulla stampa si raccontava che Renzi in qualche modo vuole disinnescare le possibili polemiche legate a questo, ma davvero sono polemiche che possono poi riverberarsi sull'opinione pubblica? Ma guarda, un punto di vista diciamo oggettivo, cioè del dibattito, gli fa già male, perché ovviamente è coinvolto Matteo Renzi, in quanto le nomine le aveva fatte lui, in quanto Marroni era una persona che conosceva da tempo, di sua fiducia, è coinvolto Lotti che era il suo braccio destro, è tuttora il suo braccio destro, l'unica speranza, per cui non è detto che dal punto di vista sostanziale ci siano ripercussioni, e che forse io penso che la maggior parte degli italiani sia occupata di ben altre cose, e che ma anche i lettori dei giornali ormai sono talmente pochi che l'unica speranza è quella, che insomma non cioè, non arrivi a così tanti italiani, però cioè, che questa vicenda non faccia bene al PD, questo mi sembra evidente. A me colpiscono, guarda, due cose. Intanto che ormai moltissimo del dibattito tra i partiti si fa solo di mozioni, neanche di leggi, ma di mozioni. E poi l'altra cosa è questa tattica del governo di disinnescare, come ha detto Padoan, di disinnescare gli atti politici. Cioè una mozione si affronta, non è che la disinneschi, cioè che fai una cosa per evitare che venga discussa. Ed è un po' la stessa tattica che hanno usato con il referendum sui voucher della CGIL, che io disapprovo, se è chiaro. Però c'è una cosa da affronti, il fatto che tu disinneschi denuncia una cosa molto evidente, che non hai la maggioranza. Quando hanno abolito, il problema è vero. Il riferimento a questo, quando hanno abolito i voucher per evitare il referendum sui voucher. Esattamente, cioè lì c'è un problema politico che è il seguente, che al Senato la maggioranza che sostiene il governo non ha i numeri, è sempre più appiccicata insomma con la colla, e quindi ogni provvedimento cioè delicato che mette in discussione il PD o Matteo Renzi o il governo si cerca di evitarlo, però no, ma chiaro, vedi i numeri in bilico qua, Oscar. È un po' difficile immaginare, dopo questa bella prova di lealtà, amicizia e sostegno, che si tratti un governo amico, come pure Renzi l'ha trattato all'inizio, perché ha strattonato i tecnici, ha strattonato Gentiloni, una cooperazione piena, sono al pieno servizio dell'intento di un partito. I governi non servono a questo, secondo la Costituzione, sono istituzioni, però va bene, la prassi italiana, niente di male. Quindi io dico solo che è quello che hanno detto, la somma di quello che hanno detto Elisa e Annalisa, cioè che è una vicenda molto delicata, che investe ministri, comandanti generali dell'arma dei carabinieri da una parte, dall'altra ufficiali dei carabinieri sui quali pende l'accusa di essere sleali alla Repubblica, cioè delle cose incredibili. Allora, tutto questo è diventata classicamente, come ai vecchi tempi di Craxi, una vicenda di manine e manone. Ecco, quando ci chiediamo perché poi la gente non si fida dei partiti e delle istituzioni, dipende da questo. Questo io poi vado al punto della questione, voglio sapere, non ho gli elementi per dire chi è colpevole, no, chi è innocente, però questo oggi è il infatti motivo. C'è un'inchiesta che ero sulla stampa, ma servono ancora i partiti, che poi è una tradotta, potrebbe essere, ma la gente crede ancora ai partiti, e sappiamo che ogni tanto viene tirata fuori questo tipo di domanda e la credibilità dei partiti, come dire, nelle menti degli elettori e dei cittadini è un po' scesa negli anni. Quindi, ma però rinnovellano ogni volta occasioni per farla scendere, perché un governo che dice guarda, tu sei l'unico non indagato, ma vai a casa, perché mica si può per parlare in Parlamento di quello che dici, che se ce l'hai con l'otto, beh, a casa che meglio. Una cosa così non mi piace. In ogni caso, noi diamo il numero di telefono, facciamo un attimo anche di pubblicità, 800 24 00 24, perché e l'altro tema politico, se volete parlare anche dello Ius Soli, che vabbè, no. Tu dici che non sbuffi su questo tema, no, però forse hai fatto il pieno in settimana. No, figurati, sì, appunto. Lo Ius Soli, anche ieri Monsignor Galantino della CEI, Repubblica delle Idee, ha detto che insomma la Lega e anche il Movimento 5 Stelle pensano solo al loro tornaconto, perché questa cosa sa da fare quello dello Ius Soli, la cittadinanza più snella per i figli degli immigrati. Dai, tra poco state con noi. State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience. Scoprila su inaz.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qua a 8 e 42 minuti. Intanto Oscar, da agenzie hanno anche arrestato in Italia un iracheno a Crotone richiedente asilo che faceva propaganda per l'ISIS nel centro Sprar. Questo raccontano le agenzie. Ovviamente vedremo di che si tratta. Comunque un cittadino iracheno è stato fermato con l'accusa di favorire e fare propaganda all'ISIS. Non ci facciamo mancare nulla. Va bene, siamo con Annalisa Cuzzocrea di Repubblica, Elisa Calessi di Libero, e con gli ascoltatori c'è Claudio da Roma. Buongiorno Claudio. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Come dicevo prima, questa iniziativa di eliminare di quei due soggetti del Consiglio della Consip, no, che si sono autoeliminati. Sì. Chiaramente lì c'è stato un messaggio, un ordine, così in maniera tale che anche Marroni è costretto a diciamo licenziarsi, togliersi di mezzo. E come dire, se la mettiamo in campo sportivo, siccome l'allenatore non ti piace, tu ammazzi tutti i giocatori, così abbiamo eliminato il problema. Che esempio cruento, caro. Ma scusi, hanno messo una toppa, era meglio lo straccio che c'era prima, questa toppa. Io mi ricordo, si ricorda Zeman quando denunciò il doping? Alla fine Zeman fu messo da parte, ma perché questa è l'Italia. Sì. Cioè passano i cicli, i lustri, ma i soldi mazzettari. Le dico un'ultima cosa, io quando vedo queste situazioni penso sempre ai nostri giovani che vanno all'estero, tipo quei due poverini morti nel grattacielo. Sì. Ma questi soggetti che smazzettano dalla mattina alla sera e ci portano il debito pubblico a 2.500 miliardi tra poco, ma non si rendono conto che stanno togliendo la vita al nostro futuro? E questo è il problema. Vabbè, Claudio, questa è la sua considerazione molto amara ma efficace in alcuni passaggi. No, secondo me non se ne rendono conto, come diceva quel tale Homo Homini Lupus, no? Ognuno pensa poi al proprio interesse, purtroppo. Esatto. Purtroppo. Poi anche fossero sfiorati dal dubbio, se ne fotterebbe. Allora, Annalisa, c'è questa cosa dello Ius Soli, ma riprenderà queste? Perché adesso ho letto si reincardina, o meglio si tenta di reincardinare al Senato, dopo aver dato magari dei guantoni da box all'entrata a tutti, in modo da strutturare un po' la questione, però ci sono le elezioni domenica, i ballottaggi, per cui... Ma si farà sta cosa? Stiamo parlando del nulla. Hai paura che sia stata una mossa elettorale per i ballottaggi, per polarizzare da destra e sinistra? Non lo so, secondo me invece il dibattito si è talmente acceso che a questo punto dovranno portarla fino in fondo, anche se fosse stato all'inizio un calcolo per polarizzare, credo che si andrà avanti. Poi te l'ho detto anche l'ultima volta sulla legge elettorale, quindi ho paura di portare sfortuna, magari non dovrei dirlo perché non lo so, io questa cosa dello Ius Soli la vedo davvero importantissima, nel senso che secondo me è uno di quei temi su cui si scopre che destra e sinistra esistono ed esistono ancora, e che la sinistra dovrebbe essere per l'inclusione e la destra invece per la separazione in qualche modo. A me questo dibattito, io l'ho seguito da vicino, trovo la posizione dei 5 Stelle di chi dice è fatto solo per, appunto, per dividere, oppure di chi dice bisognerebbe pensare prima ad altro, trovo queste posizioni assurde. Ci sono 800.000 bambini che si sentono italiani e che non hanno la cittadinanza riconosciuta, non è uno Ius Soli secco, no? Si chiama Ius Soli temperato, nel senso che non è che basta arrivare in Italia e partorire perché quel bambino sia italiano, serve che avere un permesso di soggiorno da un tot di anni, serve oppure che i bambini abbiano fatto un percorso scolastico, abbiano chiuso un ciclo. Insomma, non vedo perché dire no a questa legge. No, ma poi l'idea del benaltrismo, non so, Oscar, tu ne hai parlato di settimana, l'idea del benaltrismo è insopportabile, cioè dire c'è altro da fare. Ma che vuol dire? Si può fare altro contemporaneamente a una legge, se una ma legge... Ma sai, quando non si ha il coraggio di dire che una cosa... va bene, allora si dice che non serve, quello è il infatti, punto. Tanto perché... se ne parla da anni di questa legge. Il sospetto solo, Oscar, è perché sia stata, come dire, ritirata fuori adesso, in fine di legislatura, no? Perché in realtà di Ius Soli temperato se ne parla dall'inizio della legislatura, quindi può essere anche sacrosanto in alcuni aspetti come principio. Ma come sempre, dietro il calendario politico delle aule parlamentari ci sono priorità politiche di chi è maggioranza, è inutile che ci raccontiamo altre storie. Quindi è stata accantonata per evitare di... considerandola un problema che avrebbe diviso, quando poi bisogna, ha senso far vedere le divisioni di fronte all'elettorato, come vedi torna fuori. Ma io non mi scandalizzo di questo, ecco. L'essenziale è che però si arrivi poi a una conclusione, ecco, questo poi mi dico, perché un qualche nesso con la situazione oggettiva di cui si sta tentando di parlare, di normarla, ecco, dovrebbe la politica averlo, perché che ci abbia il cinismo dei tempi lo capisco. Speriamo che questa volta non finisca nel nulla. Ma è questo, cioè, dopodiché, io ti dico, perché come i messaggi di tutta la settimana me li sono letti tutti, sono riusciti naturalmente in maniera perfetta a polarizzare reazioni di pancia. Perché, ripeto, sul merito della norma, cioè consentire, da una parte c'è il canale delle sculture, 5 anni di scuola qui, eccetera, eccetera, dall'altra le particolarità che devono avere i genitori, quanti anni devono essere stati qua, la presenza di un reddito, una casa, eccetera, sono riusciti a fare in modo che alla gente non siano arrivati. Quindi la gente è convinta che ci sia una enorme benedizione di milioni di bambini, e come primo passo per poi darla immediatamente anche a decine di milioni di genitori, ecco, abdicazione della sacra patria italiana nelle mani dei nemici. Ecco, e sono riusciti a dare... far passare questo. Ma infatti io, che mi trovo d'accordo sui principi della legge, trovo però che quel cinismo dei tempi a cui fai riferimento tu della politica abbia in qualche modo, cioè, fa bypassare anche l'interesse nei confronti dei punti della legge e fa prevalere invece questo stupore a dire: ma come, è una legge che interessa davvero o interessa far apparire le divisioni politiche più che far passare la legge in sé? E questo sospetto, insomma, che me la fa andare un po' di traverso in questo momento. Capisco bene. Non so, Elisa Calessi, è un tema, dice Annalisa Cuzzocrea, in cui si vede dove è la destra e dove è la sinistra. Uno dei pochi temi rimasti in cui si vedono gli schieramenti ben delineati. Si sono visti, secondo te, in questo dibattito? Cioè, diciamo, il tipo di dibattito molto semplificato, molto, come dire, un tanto al chile, e che punta alla pancia delle persone, certo, crea la divisione. E poi, se si va nel merito della legge, come accennavate voi, in realtà io penso che non sia un tema invece in cui puoi tagliare con l'accetta la destra e la sinistra. Perché, ti faccio un esempio, io abito a Roma, vengo dall'Emilia Romagna. Se tu parli con tanti sindaci dell'Emilia Romagna, che non è certo una terra leghista, e che hanno, come dire, stanno affrontando la questione immigrazione, perché c'è persino in Emilia Romagna un problema, e cioè non trovi l'equazione immigrati uguale accoglienza, non la trovi. Cioè i sindaci che hanno a che fare con questi problemi si rendono conto che il problema è molto complicato da affrontare, molto, cioè quando poi arrivi, quando lo devi governare concretamente al di là dei proclami, cioè ti rendi conto che la questione è complicata. Vi faccio un esempio, io sono Ius Solis, che è un tema che assolutamente va affrontato e che pone un problema vero e che è un diritto ovviamente che va riconosciuto. Dopodiché penso che ci sono nelle nostre città, penso anche a Roma, delle enclave di stranieri che vivono in Italia da tempo e che però rifiutano la nostra cultura, rifiutano addirittura la lingua, no? Questo per esempio è un problema soprattutto delle minoranze cinesi, no? Sappiamo che ci sono interi quartieri a Roma che hanno questo problema. Ecco, bisogna evitare questo tipo di immigrazione, che abbiamo visto che è un fallimento, è stato un fallimento in Francia, un fallimento in Belgio. E quindi lo Ius Solis deve prevedere, come però in parte prevede questa legge, un percorso già di integrazione. Chi è previsto? Cioè, però infatti vedi che tutto però va calibrato bene, ma capito bene, cioè non deve essere l'inizio. Però è molto efficace quando dici se uno va ad analizzare la legge si scoprono delle cose, ma ha prevalso il dibattito buttato su: ah, volete tutti italiani, ah, non così, insomma, prima gli italiani. Se si sono sentiti tanti di quegli slogan, Oscar, che ai noi è sempre così. Oime, ma se poi parli dei dettagli della legge, ti assicuro, arriva l'ondata di cose: ah, vuoi perderci nel dettaglio? Qui la scelta è quella di fondo. Vabbè, sì. Allora non so cosa dirvi. Vediamo un po', c'è Silvano, ci chiama da Vicenza. Buongiorno Silvano. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Sì. Io direi che l'ipocrisia di Monsignor Garantino è che se predica tanto e razza da male il discorso dello Ius Solis, perché non dà il Vaticano il passaporto suo a tutta questa gente che lo richiede? perché devono ius, lo dice anche lei, ius soli, capisce che devono stare nel territorio del Vaticano, no? Come minimo. E loro li fanno arrivare, li fanno entrare in Vaticano e sono sul territorio Vaticano. Ah, va bene Silvano. Ecco, no, a proposito di slogan, ci perdoni Silvano, però c'è, no, Annalisa, c'è questo, allora, tutti a casa Galantino, che essendo un monsignore avrà una casa molto grande come il Cardinal Bertone, dai, così continuiamo. No, ma è vero allora che si fa una battaglia ideologica, no? Però ricordatevi, è successo anche per le unioni civili, sono state messe in campo perché il PD aveva bisogno di fare una cosa di sinistra, è vero, c'è una strumentalità nella politica, però poi determinate cose, se servono nella società, assumono una forza che va al di là di quella strumentalità. Io credo che per lo Ius Soli sia la stessa cosa, è stato messo in campo probabilmente perché in questo momento serve anche alla politica, al centro-sinistra, per legittimarsi in un certo senso, e va bene, però poi ci sono, noi siamo inondati a Repubblica di lettere di ragazzi che ci dicono ma allora, ma è il momento, ma lo approvano, saranno 800.000, davvero ce ne arrivano tante, per questo ne abbiamo fatto anche un po' una battaglia e non lo so, io davvero non capisco l'opposizione, nel senso che Elisa parla di enclave, è vero, anch'io lo noto, abbiamo tutti dei figli che vanno a scuola e hanno compagni di altre nazionalità o comunque con i genitori di altre nazionalità che parlano in romanesco ed è vero che magari i loro genitori vivono in modo... appunto magari rifiutano la lingua, lo vediamo nelle chat WhatsApp dei genitori, però come si risolve tutto questo, anche rinchiudersi in club? Secondo me l'atto simbolico della cittadinanza è una di quelle cose che scardina questo meccanismo, che aiuta l'integrazione. Io davvero non capisco la ragione del negarlo, non stiamo parlando di dare la cittadinanza a chi sbarca appunto subito e parte l'Italia, stiamo parlando di un percorso differente, non riesco a capire i dubbi in qualsiasi modo, mio figlio considera italiani i ragazzini che sono vissuto o indiana, se lo vedi con gli occhi dei bambini, ma vissuto con gli occhi dell'esperienza reale molto perde anche di senso. Io ho una carissima amica cinese, ormai italiana, parla milanese, e i suoi figli non considerarli italiani, nati e cresciuti in Italia, mi sembra una follia, anche se hanno gli occhi a mandorla, lo so, però la battaglia ideologica si vede anche in alcuni messaggi di oggi che ci arrivano, la battaglia ideologica l'hanno impregnata come sempre di materiale incendiario, perché sembra quasi, capito, che ci sia una specie di resa in corso, ragazzi, non è così. Poi se siete indifferenti, voi che insultate, al fatto che la legge prevede che anni di scuola, condizioni per i genitori eccetera eccetera, siete indifferenti alla realtà e vi qualificate così, siete fuori dal mondo. Ma tanto Oscar, noi continuiamo fino alle 9:30, quindi continuate a chiamarci all'800 24 0024, perché dopo il giornale radio siamo ancora qui a parlare di questo e di altri temi. State con noi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Si alza il sipario sul negoziato tra Unione Europea e Gran Bretagna per la Brexit, ovvero per l'uscita di Londra dalla UE. Tra poche ore, nella sede della Commissione a Bruxelles, due delegazioni siederanno una di fronte all'altra. Da una parte ci sarà Michel Barnier, capo negoziatore europeo, dall'altra David Davis, segretario di Stato britannico per l'uscita dall'Unione Europea. Non sarà un negoziato breve, serviranno quasi due anni per chiudere i lavori e non sarà neppure un negoziato semplice. La prima volta che un paese esce dal club europeo, le sessioni iniziali del negoziato serviranno per fissare le regole del gioco, poi la trattativa si farà serrata su due questioni prioritarie: la salvaguardia dei diritti dei cittadini europei che vivono in Gran Bretagna e gli impegni finanziari di Londra con l'Unione Europea. Certo, le elezioni politiche dell'8 giugno, di fatto perse dal primo ministro Theresa May, hanno aperto all'ipotesi di una Brexit più morbida rispetto alla possibilità di un divorzio netto e profondo. Così già oggi il ministro Davis potrebbe presentare un'offerta molto generosa ai 3 milioni di europei che vivono in Gran Bretagna, che non muterebbe di fatto le attuali condizioni per la permanenza in Gran Bretagna, garantendo ai cittadini europei gli stessi diritti di cui godono adesso. Capiremo presto se sarà un'apertura vera o solo una tattica di Londra per resistere su altri fronti, a partire dal controllo sull'immigrazione, tema che da sempre divide Londra dal resto dell'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. 24 mattino. Attenti a noi due. E allora, caro Oscar, andiamo avanti fino alle 9.30, questa è la novità, fino a luglio, fino alla fine di luglio. Posso dirti l'articolo che oggi più mi ha riempito di cose, me ne occuperò adesso, qualche modo, personalmente, non solo come giornalista, La Stampa, quello di la vicenda di Dodore Meloni. Ah, l'indipendentista. È uno dei classici sardo. Personaggi perdenti idealisti che fa parte del mio pantheon di riferimento, cioè quelli che immediatamente sento vicini, il che non significa che condivido in pieno quello che dicono, però coerenti in un paese di incoerenti. È un indipendentista sardo che in carcere, dopo essersi fatto già 9 anni di carcere, perché lo Stato ovviamente lo acchiappa, è facile, ha pochi seguaci, quindi lui è convinto dell'indipendentismo sardo. Io non ho detto che ha ragione o meno, però è convinto, però, ed è una vita che cose. Dice: io sfido lo Stato mi vuole tassare, io sono contrario, vai in galera, andrò in galera per testimoniare la mia fede. Ecco, adesso sta al 50° giorno di sciopero della fame. E io in piccolo, vicende come queste, che sono fatte per i nobili ideali, non stiamo parlando di rubare i soldi a nessuno, però con una coerenza estrema, devo ammetterlo, mi suscitano una riflessione su questa coerenza estrema in ideali forti, che magari nessuno di voi condividerete, che è a casa, e il cinismo totale invece con cui nelle vicende pubbliche lo Stato, tutti noi, si comportano, tutto qui. Per questo io dico: viva! Sarà in carcere, non voglio legittimare la sovranità di chi lo condanna, però Dodore Meloni, coerenza estrema, e tenterò di darmi da fare, vedrò come si fa a contattare la famiglia, a dare una mano, tutto. In ogni caso, vedete, cari ascoltatori, che potete chiamarci all'800 24 00 24, vedi che tanto ci chiamano, caro Oscar, il tema dello Ius Soli rimane in primo piano. Ferdinando ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Che dice? No, io vorrei dire che il problema non è la razza. Qui ci date del razzista, noi che siamo contro lo Ius Soli, ma Ius Soli, il problema non è la razza, il cinese, il filippino, è l'Islam e basta. Loro cioè... non si integrano, io ne conosco tanti, non c'è niente da fare, rimangono legati alle loro usanze, che sono legati al Corano. Che poi diventi italiano una persona che ha la pelle scura o gli occhi a mandorla, non fa nessun effetto. Il pericolo è l'Islam, stop. Lei dice il non capirlo. Quindi lei farebbe uno Ius Soli tranne che per i musulmani. No, non è questo. Cioè, a quelli che dimostrano che si siano veramente integrati. Ma come riesce a lei a verificarlo? Perché guarda che molti di quelli che hanno colpito erano integrati, e poi a un certo punto della loro vita... No, non erano integrati, a un certo erano punto integrati della... di forma, sono nati lì, ma la loro mente, la loro forma mentis era rimasta quella di prima. Ma lei come fa a controllare la mente di milioni di persone? Interrogandoli, psicanalizzandoli. Io ne conosco uno che lavora nel mio parco, oramai da anni, e quando gli parlo io noto l'astio, perché ma si rifanno sempre a cose di cui noi abbiamo colpa anche, come crociate, tutta sta roba, robe del passato, e questo è un contadino. Cioè, questo è l'assurdo. No, Ferdinando, comunque lei dice il problema... Che mi terrorizza. Non è questo. E basta, che sia un cinese che parli romano, una persona di colore, a me va benissimo. È molto chiara la sua posizione. Oscar è meditabondo. So che sono tanti a pensare così, ma io non è che mi metto a dire dovete pensarlo altrimenti. Caro ascoltatore, però sta confondendo, ripeto, lo Ius Soli serve a dei minori, quindi non tocca quello che dice lei, cioè per i maggiorenni, se c'è la scelta esercitabile, c'è già ed è sottoposta a delle verifiche, esattamente come sta dicendo. Stiamo parlando di minori che sono in certe condizioni. Non stiamo parlando di quello che sta dicendo italiani, lei, ma solo un po' più. Questo sono abituato a capire che è così. Ecco. In maniera un po' più snella, insomma, diventerebbero italiani. Però c'è anche da dire che la critica è: ma perché così si evita loro la burocrazia, si evitano loro le code, le file. Oh, però abbattiamo la burocrazia, abbattiamo le code, diminuiamo e rendiamo più vivibile la vita di una persona, pur essendo straniera. Invece di dire facilitiamo dando la nazionalità, cioè c'è sempre questo riflesso della politica, dire invece siccome la burocrazia non la si riesce ad abbattere, non si riesce a limitare, non la si riesce, diamo le quote suppletive agli altri come pena. Non so. Stefano dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno, dunque sì, ecco, ho sentito l'intervento del signore, sì, che ha parlato prima, ma in effetti è quello che riferisce lui. È il sentire dell'uomo medio, insomma, di cultura, sì, medio in Italia, sì. È inutile negarsi questa cosa, esatto. Cioè la gente ha questo sentimento, si sente, cioè io penso che se lo Ius Soli fosse stato preceduto da una seria legge di controllo sull'immigrazione, la cosa sarebbe stata diversa. Invece purtroppo è un fatto culturale, cioè la gente ha paura, cioè vede i propri territori mano a mano, giorno dopo giorno invasi, arrivano ovviamente tante donne in stato di gravidanza e via di sopra, e sempre di più hanno paura che ne arriveranno. E quindi è così, cioè è innegabile. Ma lei dice, cioè, che la paura in questo momento... Certo, è la paura, d'altronde con tutte le azioni terroristiche che ci stanno in giro, l'uomo medio, l'uomo comune, l'uomo della strada, è chiaro che ha paura. Ragionami. E quindi una legge del genere è sospetta. E poi non credo che chi fa una legge del genere per antonomasia sia un partito di sinistra. Il partito di sinistra è quello che si occupa dei problemi del lavoro, dei giovani, delle pensioni, ma si occupa prima di quelli, si occupa prima di quelli. Prima, capisci? Però Stefano, lei cade sempre nella questione del prima, come se non si possono fare contemporaneamente due o tre cose in politica. Se ne possono fare anche 10 se sono tutte legittime, anche 20, oppure 0, come spesso succede in Italia, Oscar. Comunque, non è che se uno si occupa dello Ius Soli non si può occupare anche del dare lavoro ai giovani. Non capisco questo conflitto nel vedere le cose. Comunque, Oscar, vogliamo parlare anche un po' di altro? Allora, intanto, sai che c'è questa guerra al turista? No, adesso guerra al turista è un po' troppo. Come, no, perché il turista in realtà lo si vuole molto. Sì. Poi quando ne sono tanti, si inizia a volerlo anche di che tipo lo voglio. Sì. Allora, cioè, se siete troppi, ma spendete poco, non vi voglio. Esatto. E la parola d'ordine quest'estate è diventata mano agli idranti. Mano agli idranti. No, c'era stato già il sindaco di Firenze che aveva detto: bagnerò le piazze perché non mi piacciono i bivacchi dei turisti. E sagrati delle chiese. Delle chiese, è chiaro. Adesso c'è un sindaco, il sindaco di Abisola, Franco Orsi, che tra l'altro è un ex senatore. Buongiorno sindaco Orsi. Buongiorno. Grazie. Quando volete vi racconto un'esperienza nostra sullo Ius Soli. Sì, sì. Poi bisogna... Adesso sì, adesso sì. No, ce la vuoi raccontare subito a sto punto. Guardi, il mio comune, diciamo, gestisce un centro SPRAR, che sarebbe la seconda fase di accoglienza, quella che se ci fosse un po' di responsabilità da parte dei comuni garantirebbe qualità perché ha controlli. E questo centro SPA noi lo gestiamo da diversi anni, abbiamo recentemente fatto un ampliamento. Il tema è che la Costituzione italiana garantisce l'infanzia, quindi dal punto di vista dei diritti e della tutela i bambini e i nati in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza, hanno piena tutela, nel senso che se si trova in una situazione di disagio il comune, come spesso avviene, li aiuta anche con ordine da parte del giudice tutelare. Secondo, se c'è un bambino presente in Italia che studia in Italia, non è pensabile che i genitori, anche se non hanno lo status né lo ricevono di protezione internazionale, possano essere espulsi. Quindi di fatto la sostanza giuridica dello Ius Solis è esistente e, come dicevate voi, diventa soltanto un impedimento e una burocrazia. Perché chi nasce in Italia ha giustamente la tutela piena, per cui poi non è che alla fine un bambino che va a scuola, che è figlio di genitori stranieri, è trattato diverso, ha diversi diritti. No, diversamente no, ha molta più burocrazia per una serie di documenti. Non c'è dubbio, infatti ci sono una serie di problemi e di complicazioni, quindi se posso, diciamo, la provocazione di chi ha telefonato prima, della telefonata prima è... Se non entrano, io non discuto su ne entrano troppi, non entrano troppi, c'è una sostenibilità anche in questo. Poi passiamo. Il tema è che quando un infante si trova in questo paese, non è la cittadinanza che ne discrimina i diritti. Allora tanto vale dargliela. E lui è presente anche in paesi che hanno politiche di accoglienza molto più rigide delle nostre. Più rigide, esatto, Stati Uniti, come Stati Uniti. Allora, però, sindaco, quindi allora, benvenga lo Ius Solis, benvenga lo Ius Solis. Allora, lei, abbiamo colto una sua dichiarazione, noi vogliamo il turismo sano, cioè quello delle famiglie che stanno negli alberghi almeno una settimana. Quelli non low, è vero. Quelli non low è cost. È propaganda comunista, come dicevano una volta. quelli low cost non gli piace. Cioè, lei è vero che fa bagnare però le aiuole, no, così la gente non bivacca? No, beh, almeno questo. Guardi, io adesso cercando di, passando un po', se mi consentite, anche un po', insomma, un po' di simpatia come una trasmissione. Credo che fosse Pascal che teorizzò il principio di incomprimibilità dei liquidi. Al Bissola Superiore ha una bellissima spiaggia di 1,3 km con 40 metri di larghezza. Decidiamo quant'è la densità tollerabile, cioè ci sono norme sulle gallinovaiole che prevedono per gli allevamenti 45 centimetri. Dice, anche sugli esseri umani nella spiaggia della Bissola più di 25.000 persone non ci stanno. Se arrivano 30, 35, 40 salta il banco e la città non offre una qualità, i turisti fanno una giornataccia e il paese dà una propria visione di degrado, non di accoglienza. Quindi il tema è, siamo nella Riviera Ligure, il posto più vicino al mare per 20 milioni di italiani e di europei, che in teoria o in pratica, se non ci fossero le code, in 2 ore di macchina possono venire da noi. Noi non possiamo avere 15.000 macchine a domenica perché non sappiamo dove metterle. Quindi vorreste il numero chiuso. Il numero chiuso. Non è il tema del... Noi fidiamo qualunque turista, ci mancherebbe. Il tema è quello che la qualità dei turisti che affittano caso, che vanno in albergo, la qualità che trovano nella città nei weekend non li fa più tornare. E se lei fosse venuto ieri, non ieri non tanto, ma la settimana scorsa la Bissola non ci sono negativi. Ma vorrebbe il numero chiuso? Cioè che sarebbe giusto? Esiste questo problema, il problema di incomprimibilità. Quindi, ma è vero che fa bagnare le uole così? La gente... Anche le rotatorie, quando la gente mette sopra le rotatorie, ha idea a che abbruttimento siamo arrivati? Ma perché la gente si mette a prendere il sole sulle rotatorie? Non c'è più un fazzoletto. No, dai, le rotatorie. Ma chi è che prende il sole sulle rotatorie? L'anno scorso noi abbiamo avuto dei bivacchi. Mi faccia prelevare con la forza pubblica. Non si può nemmeno, perché se sulle aiuole della bella passeggiata da Bissola, come è capitato l'estate scorsa, abbiamo 70-80 persone esasperate perché li hanno scacciati dalle spiagge e che hanno parcheggiato la macchina davanti a un passo carraio sulle strisce con buone possibilità di trovarsi un multone per allontanarli, ci vuole l'esercito, e quindi facciamo questa attività preventiva, diamo una bagnatina verso le 11 per rendere il fondo non praticabile. Oscar, scusa, ma la bagnatina, ma se uno va al mare tanto si bagna, quindi bagnarsi se ti poi il terreno bagnato non è esatto proprio ideale per stare. Le spiagge, abbiamo anche questo fenomeno di gli stabilimenti balneari seguono due politiche. Alcuni tengono i prezzi molto cari la domenica e fanno pochi accessi. Altri fanno entrare tendenzialmente tutti con prezzi più bassi. Però, dico adesso da utente stagionale, sono i residenti, io non vado in uno stabilimento balneare che sabato e domenica non mi consente di avere una giornata decente. No. Vabbè, insomma, lei come, visto quindi, che la città la lei è comunisti... Noi prendiamo qualunque turismo, non abbiamo la punta sotto il naso, invitiamo i milanesi e i torinesi a prendersi un bel lunedì, oggi una giornata meravigliosa, un bel martedì, un bel mercoledì, la mattina alla sera. Così sono buoni tutti però. Caro sindaco, il turismo ad Albisola dal lunedì al mercoledì. No, che vengano sabato e domenica, però esiste, c'è la libertà di circolazione. Se qualcuno si vuole alzare la mattina alle 6 e farsi 2 ore di coda all'andata, arrivare in una città che non gli dà parcheggi, e dopodiché ritornare come ieri sera, e fare farsi quattro ore di code, si piglia 80 euro di multa. Se la lascia sopra un passo carrage o su un parcheggio per disabili, la rimuovete, via col carro a tre. Eppure, eppure la spruzzatina delle rotatorie nello stabilimento balneare con meno di 70 euro due persone non entrano. Io dico, provate a venire lunedì, il martedì, mercoledì, giovedì. Va bene, poi abbiamo ma alcuni però, fenomeni però, faccia capire sindaco, al di là del colore andiamo alla sostanza, perché in realtà lei aspetti, per indicare a casa, perché questo è il lo stesso problema analogo che hanno comuni della costiera amalfitana eccetera, eccetera, cioè tutti i posti che stanno in una costa elevata a dirupo, poca accessibilità, insomma. Però i comuni, i prefetti dicono, guardate che il sindaco volendo ha dei poteri, è la stessa cosa che il prefetto di Venezia diceva al sindaco di Venezia, problema concettualmente analogo, cioè che tipo di vincoli mettere agli accessi nei giorni di picco, uno. Due, è vero che i sindaci ci hanno sempre esposto al tempo, sì, poi di fronte alle denunce penali, però così il prefetto espone me, dovremmo concertare delle cose. Chiedo a lei, nella legge attuale, se lei si mettesse d'accordo con il prefetto, avreste la possibilità per alcune misure che non vengano poi impugnate, come dire, fate entrare solo i ricchi, eh? Perché io credo di sì, ma nella sua esperienza? Allora, noi abbiamo cercato di lavorare con la regione Liguria, perché il tema principale è quello del demanio. Cioè, noi oggi non abbiamo gli strumenti per mettere un contingente di massimo di accessi nelle spiagge libere. Esatto. E non c'è modo, perché il demanio come bene pubblico è, diciamo, codice di navigazione a qualche decina di a qualche lustro. Perché no, ma per questo ci vuole il prefetto. E non nemmeno il prefetto, perché per questo ci vorrebbe una legge che regolasse. Quindi il problema è se tendenzialmente le spiagge libere, però secondo me il problema, e in questo senso magari possiamo sembrare cinici, è da una parte culturale nel senso di informativo. Sì, sì, ma senza riaprire culturale, io ho fatto una domanda specifica sulle norme, lei dice bibubà, però insomma volendo si può studiare una cosa doc, tutto qui, ecco, perché altrimenti finisce per essere un appello culturale, sì. Ma poi il colore. Comunque sindaco, la dobbiamo salutare anche perché abbiamo un altro ospite, altrimenti tutti all'Albisola, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, quando volete, ma insomma sappiate che... Che insomma da domenica problemi vostri. Esatto. Franco Orsi è il sindaco di Albisola, provincia di Savona, ma noi vogliamo salutare un altro ospite che ritroviamo, si tratta di Andrea Incondi, che è l'amministratore delegato di Flixbus Italia. Ti ricordi che ce ne siamo già occupati, Oscar? Ce ne siamo occupati anche qui, la politica ha detto una cosa e ha mentito, l'impegno del governo a respingere la norma anti-Flixbus è caduto perché la norma anti-Flixbus resta. Esatto. Buongiorno Incondi e ben ritrovato. Buongiorno a voi. È ricomparso un emendamento che tra l'altro nel miglior tradizione italiana è diventato un emendamento a mia insaputa. Sabato in commissione bilancio è comparso un emendamento che di fatto blocca, è già il tentativo secondo credo, se non terzo, l'attività di Flixbus, che sono cioè gli operatori che fanno diciamo gli autobus low cost, no? E spostano in tutta Europa migliaia di persone. È davvero così? Cioè è comparso un emendamento che vi blocca in Condi? Sì, la situazione che stiamo vivendo è una situazione paradossale. Insomma, era stato inserito questo emendamento anti-Flixbus a febbraio nel milleproroghe, tutti si erano stracciati le vesti, nessuno aveva riconosciuto la paternità, si è impegnato immediatamente il governo per risolvere e così è accaduto a fine aprile. Ora, nella manovrina, insomma, in conversione appunto a diventare legge, è stato reinserito lo stesso identico testo che era stato cancellato e questa manovrina, come avete potuto leggere, naturalmente è diventata legge e quindi siamo praticamente al punto zero. Sì, tra l'altro c'è questo giallo di chi ha firmato, Liliana Ventricelli, deputata del PD, che disconosce l'emendamento dicendo non è vero, non era un emendamento su un'altra cosa, cioè giallo nel giallo, dice a me, forse a lei non interessa molto questa. Questo è un giallo che abbiamo anche noi seguito dalla stampa e siamo diciamo abbastanza perplessi di cosa stia accadendo e di come sta accadendo nei confronti di un'azienda che alla fine ha come scopo quello di dare la possibilità a tutti, indipendentemente dalla condizione economica che hanno, di viaggiare per tutta Italia e l'Europa. Comunque lo sapete cosa stava accadendo, cioè io mi sono preso la responsabilità di ridirlo in trasmissione e lo ripeto, i rappresentanti diretti di alcune imprese spiazzate, concorrenti in pugliese, in contatto diretto con rappresentanti parlamentari anche del PD, di cui si sanno i nomi e i cognomi, con vincoli di amicizia e in taluni casi anche quasi di parentela, hanno rifatto fatto questa questione. C'è dentro anche, lo ripeto perché ho dovuto fare una trasmissione, la rappresentanza dell'associazione di imprese di trasporto pubblico nel nostro paese di Confindustria, sono i rappresentanti diretti delle vecchie imprese spiazzate che evidentemente hanno un ottimo ascolto nella politica e nei partiti. Non mi risulta così, scusi. Quello che noi vediamo lo apprendiamo anche noi dai giornali, sicuramente questi elementi e tutti questi aspetti noi non ci vogliamo nemmeno entrare, esatto. Quello che adesso chiediamo è quello di avere un governo che sia di un governo di un paese credibile, un paese che sia in grado di attrarre gli investimenti esteri, un paese che sia in grado di dare lavoro, un paese che sia in grado di non far sì che le norme possano cambiare ogni mese a colpi di blitz legislativi. A loro ci rivolgiamo, a noi non ci riguarda tutte le altre faccende, ci rivolgiamo al governo che intervenga immediatamente per sanare ancora una volta la stessa situazione che abbiamo vissuto pochi mesi fa. Perché ci faccia capire in due numeri, in Incondi, Flixbus cosa fa rispetto alle altre compagnie che lavorano sul mercato. Noi non facciamo niente di diverso, quello che abbiamo fatto è stato semplicemente unire due mondi, da una parte noi che ci occupiamo appunto con la tecnologia di comunicazione, piattaforma, vendita biglietti, pianificazione delle tratte che soddisfano maggiormente i clienti. Dall'altra parte ci sono le aziende italiane che operano il servizio e si dedicano di fare il servizio al miglior modo. No, abbiamo unito questi due mondi che la normativa italiana permette di fare e abbiamo fatto un servizio che oggi collega 150 città italiane e che ha portato in 2 anni e mezzo 4 milioni di passeggeri. Noi questo abbiamo fatto di diverso. Date evidentemente fastidio a chi già sul mercato è e non vuole concedere altri spazi. Senza analoghe forme però di organizzazione della domanda e dell'offerta e con tariffe variabili. I concorrenti spiazzati sono il vecchio per questo, non perché ci fossero da prima. Comunque noi Andrea Incondi la ringraziamo. Io non ho capito se questa vicenda adesso è chiusa oppure no, cioè ci dica. Il governo già aveva detto, ma cioè, poi alla fine non ha tenuto, quindi il governo perché non quando tiene. Ci dice è legge, cioè che vuol dire praticamente per voi? Oggi è legge, quindi ci chiederà, come è accaduto appunto a febbraio, di intervenire nel nostro modello organizzativo per poter continuare ad operare come abbiamo fatto precedentemente. Questa è la prima cosa. Noi comunque siamo confidenti che, perché c'è stato già un ordine del giorno, il Partito Democratico con il suo segretario ha già espresso la volontà forte di intervenire, di cambiare, quindi siamo fiduciosi che nelle prossime settimane qualcosa verrà. Esatto. Va bene, la ringraziamo tutti, caro Oscar, con Paolo Corleone in regia e Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Chiara Compagnoni c'è anche in redazione. Saremo qua fino a luglio, fino alle 9:30. Miau. Ciao.